passione africana. La legge sulla concordia civile ha insomma chiuso una pagina della storia algerina, ma ora ci sono molti algerini che lamentano proprio il fatto di non essere in grado di leggerla. Sì, infatti la concordia civile vieta a questi ex terroristi di candidarsi o di fare politica praticamente. Quindi non fanno politica? No, non fanno politica. Ma non hanno peso nella società? Hanno un grande peso nella società, perché avere peso nella società in un paese come l'Algeria, paese anche del terzo mondo, soprattutto nell'ambito economico, quindi se uno ha soldi certamente ha più peso di un parlamentare, riesce a corrompere, a fare delle mediazioni eccetera eccetera, e questi hanno veramente un sul piano economico hanno un peso enorme, c'è una frustrazione soprattutto all'interno del mondo giovanile, e da questa frustrazione un po' nasce questo desiderio forte di andarsene, quindi di immigrare clandestinamente. E déconcentrez-moi, déconcentrez-moi. J'ai vu un rêve, j'ai vu la terre belle, ronde avec une skiette, ronde avec une skiette, ronde avec une skiette. J'ai fait un rêve, j'ai vu la terre belle, ronde avec une skiette. Ça claque. L'Algeria, di cui abbiamo parlato a lungo con Amara Lacouche, che ringrazio, è naturalmente anche un paese ricchissimo di petrolio e soprattutto di gas naturale. Non è la prima volta che in questo viaggio attraverso l'Africa incontriamo paesi con dei veri e propri tesori nel sottosuolo. In Algeria 3 anni fa è stato lanciato dal governo un mega programma nazionale di investimenti da 150 miliardi di dollari, un programma che deve trasformare le infrastrutture, i servizi sociali, insomma un programma che coinvolge la società nel suo complesso e che viene finanziato di fatto dalle risorse del sottosuolo. Allora, per capire quanto vale il tesoro algerino, qual è la sua importanza anche per la nostra sicurezza nazionale, chiedo l'aiuto di Guido Michelotti, che è Executive Vice President Regione Nord Africa e Medio Oriente dell'ENI. Insomma, peraltro, ingegner Michelotti, la sua tra virgolette è una regione immensamente ricca di petrolio, quella su cui opera, e l'Algeria in questa storia è sicuramente una parte importante. Allora, quanto vale l'Algeria? L'Algeria rappresenta certamente uno dei paesi chiave nello scenario energetico internazionale ed è di gran lunga il principale produttore di energia nel bacino mediterraneo, che produce petrolio e soprattutto gas. Sono grossi volumi, circa 113 miliardi di metri cubi l'anno, di cui 70 esportati. Sono esportati attraverso dei pipeline sottomarini, uno che collega l'Algeria con l'Italia ed un secondo che collega l'Algeria con la Spagna, e sono anche esportati come metano liquido attraverso dei terminali sulla costa. La maggior parte di questo gas raggiunge l'Europa e una buona parte, circa 25 miliardi, raggiunge l'Italia. I 25 miliardi coprono un terzo del nostro fabbisogno di gas. L'Algeria naturalmente costruisce la sua economia su queste ricchezze, ma in futuro? Certamente le riserve sono ingenti e il paese continuerà a giocare un ruolo chiave come fornitore energetico, ripeto, in modo particolare nel bacino mediterraneo. Sono previsti progetti di espansione del sistema di esportazione e ancora una volta nell'ambito di queste espansioni l'Italia rivestirà un ruolo chiave, perché c'è un secondo sistema di condotte sottomarine che porterà gas attraverso la Sardegna, il Galsi, e quindi è ragionevole prevedere che il contributo dell'Algeria al fabbisogno della domanda energetica continuerà a crescere. Noi siamo presenti in Algeria dal 1981, siamo stati i primi a posare le condotte sottomarine che collegavano il paese ai consumatori di gas nel bacino europeo, e è un progetto che è partito negli anni 70 e che ha cominciato a consentire di esportare dal 1983. Da allora i volumi di gas che l'Algeria esporta verso l'Italia sono praticamente più che raddoppiati. Nel paese non solo abbiamo svolto questo ruolo di apripista, ma siamo oggi anche il primo operatore straniero in termini di produzione. In sintesi, è un paese importante per l'Europa, è un paese importante per l'Italia ed è un paese importante per l'ENI, che svolge un ruolo chiave e che continuerà ad operare nel paese. Un paese strategico con il quale mantenere rapporti diplomatici molto serrati attraverso il dialogo, ci spiega Innocenzo Titone, responsabile ENI in Algeria. Il dialogo in genere nel mondo arabo e in particolare in Algeria è assolutamente fondamentale. L'Algeria è un paese di contrasti, ci troviamo di fronte a una popolazione con un forte senso di identità, molto giovane, con un grande orgoglio e naturalmente di fianco ai grossi investimenti si affiancano iniziative di responsabilità sociale. Faccio qualche esempio, abbiamo avviato un progetto a partire dal 2007 con il Parco Nazionale del Tassili di elettrificazione di pozzi d'acqua. Nel 2008 con il Ministero della Cultura algerino, con l'aiuto e il supporto dell'Università degli Studi Roma 3, abbiamo avviato un progetto di restauro di un mosaico di una estrema bellezza, risale al III secolo, il trionfo indiano di Dioniso a Setif. E accanto a questo non è tanto il restauro in sé, quanto accanto al restauro è stato avviato un laboratorio in situ per dei restauratori locali, quindi 6 restauratori provenienti dai musei della costa, Setif, Cherchell, Jamil e Tipasa, che hanno lavorato fianco a fianco con i restauratori inviati dall'Università Roma 3 e quindi si garantisce un intervento che ha una sua sostenibilità nel tempo. Ritorniamo alla società algerina con Amara Lacous, che ci racconta di una società fatta di giovani che si sentono in gabbia, che hanno paura, e questo purtroppo è un elemento che ho ritrovato in diverse tappe del viaggio attraverso l'Africa, dicevo, di giovani che hanno paura già di non avere un futuro. Perché, Amara? Perché non hanno fiducia nel cambiamento, cioè questo è il punto, cioè non c'è fiducia nel domani, non c'è fiducia nella capacità della classe dirigente di risolvere dei problemi che ci sono, quindi offrire posti di lavoro e dare un avvenire, un futuro a questi giovani. E in questo contesto si inserisce un po' questi mondiali. Infatti la qualificazione dell'Algeria ha dato a questi giovani uno spazio di felicità, di sognare, però in attesa ovviamente dopo i mondiali i problemi di prima torneranno comunque a galla. Insomma, i mondiali come una sorta di tregua, e nel futuro dell'Algeria che cosa c'è, a tuo avviso? Su questo un musulmano direbbe solo Dio lo sa. Inshallah o Allahu Alem, solo Dio lo sa. Tra l'altro è una parola molto usata in Algeria. Intanto, ormai nel mondo. Intanto adesso c'è una grande preoccupazione per questa nazionale algerina che non convince per quindi nulla. Quindi per ora c'è questa priorità calcistica. Infatti c'è un grande rischio di fare una brutta figura, soprattutto con l'Inghilterra. Ieri mio fratello mi diceva, guarda, 10-0 con l'Inghilterra, non ce lo toglie nessuno, quindi c'è il terrore capello. Ecco, questo è un una grande paura. Dopo questi mondiali, diciamo, la qualificazione ai mondiali ha creato una tregua, una situazione di, come posso dire, anche di tranquillità, di simpatia nei confronti anche del governo, che tra l'altro il presidente Bouteflika ha spinto molto. Ricordiamo che i tifosi algerini sono andati in Sudan, la partita dello spareggio gratis, sono state portate con aerei militari in Sudan, tutto pagato. Quindi i giovani hanno visto in Bouteflika un po' l'orgoglio dell'Algeria di non accettare un po' le pressioni egiziane, però dopo i mondiali i problemi, le grandi tensioni anche della società, c'è il problema del lavoro, il problema degli alloggi che sono molto sempre scarsi. E quindi dopo i mondiali l'Algeria si ritroverà a fare i conti sia con i risultati di mondiale, che certamente non saranno, visto un po' le premesse, non saranno veramente molto, molto, molto positive, e poi con la società che deve fare i conti con i problemi attuali. Grazie ad Amara Lacus, che è stato con noi, che ci ha dunque raccontato l'Algeria di oggi. Un ringraziamento particolare anche a tutti gli amici di Radio Svizzera con cui abbiamo realizzato questo progetto sulla via, lo ricordiamo ancora una volta, dei primi campionati del mondo che si giocano in terra africana. Radio 24 ed Eni vi hanno presentato Passione Africana.